Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Prosegue la versione estiva di Essere e Avere. Abbiamo selezionato e riorganizzato i contenuti dei mesi scorsi per tornare a raccontarvi i nuovi stili di vita e di consumo, i fenomeni emergenti, le tendenze che anticipano cambiamenti in molti casi già in atto. Etica e consumi, il primo tema della puntata di oggi. Torneremo a parlare di economia della felicità, di human satisfaction, di nuovi indicatori di benessere, di economia del dono, insomma di tutte quelle trasformazioni che stanno attraversando i consumatori, i cittadini, i brand e le imprese. Consumatori che, come raccontiamo spesso, sono sempre più eco-consapevoli ed etico-consapevoli, pretendono prodotti e servizi all'altezza delle loro aspettative. Contemporaneamente o in ordine a questo, a seconda di come la si voglia vedere, sta emergendo la necessità di un nuovo modello economico più sostenibile a livello sociale e ambientale, un modello che faccia convivere etica e profitto. Sulla necessità di indicatori di benessere, partiamo da qui, che vadano oltre il PIL, il prodotto interno lordo, in molti si sono misurati, dalla commissione Stiglitz all'ONU. Per noi resta memorabile, vale sempre la pena riascoltarlo per introdurre il tema, il discorso che Bob Kennedy pronunciò nel 1969, parole allora considerate visionarie, oggi in molti vi si rifanno per parlare di nuovi modelli di consumo. Non troveremo mai un fine per la nazione, né una nostra personale soddisfazione, nel mero perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fine beni terreni. Non possiamo misurare i successi del paese sulla base del PIL. Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per sgomberare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l'intelligenza del nostro dibattere o l'onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizia nei nostri tribunali né dell'equità nei rapporti fra di noi. Il PIL non misura né la nostra arguzia, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Etica, profitto, felicità dunque, della necessità di nuovi indicatori per nuovi modelli economici che contemplino una visione più umanistica, più antropologica del mercato, abbiamo parlato con Luciano Canova. È un economista, si occupa di qualità della vita e felicità, tra le altre cose è ricercatore del CRESA dell'Università San Raffaele. L'economia come scienza sociale nasce con una profonda attenzione all'etica e alla relazione tra economia e società, per l'appunto, tra uomo e società. Quindi l'etica è un elemento fondamentale della scienza economica. Semmai il problema è che nel corso probabilmente del XX secolo, con le dinamiche di consumo che si sono venute affermando e con la retorica, anche se vogliamo, della crescita indefinita, si è un po' perso di vista quell'attenzione per l'abbastanza, dove per abbastanza intendo quando una persona ha soddisfatto i suoi livelli, diciamo così, di bisogni primari e può pensare alle molteplici dimensioni di qualità della vita che vanno al di là dei beni di consumo, ma riguardano appunto le relazioni personali, la soddisfazione nella vita, la qualità dell'ambiente, la bellezza del paesaggio. Tutto questo con un'altra retorica che fortunatamente sta prendendo piede, la sensibilità ambientale, l'attenzione appunto per la conciliazione dei tempi di vita, ha riportato in essere quello che sotto traccia già c'era, e quindi di fatto l'esigenza anche nella misurazione di tenere conto di queste dimensioni che sono assolutamente fondamentali per definire una vita degna, una vita bella da essere vissuta. Accennavi alla misurazione, che è un problema, nel senso che l'etica, la felicità sono concetti difficili da misurare. In economia la misurazione serve, del resto. Assolutamente. L'Italia è sempre famosa per essere in fondo a tutte le classifiche, diciamo così, degli indicatori macroeconomici. Invece su alcuni temi si trova all'avanguardia, diciamo così. In modo particolare rispetto a questo tema, l'Istat ha lanciato nel 2013 un progetto che è il BES, Benessere Equo e Sostenibile, che sostanzialmente ha un obiettivo molto ambizioso. L'allora presidente Istat, Enrico Giovannini, parlava di una nuova costituzione statistica, quindi l'esigenza di aggiornare la contabilità nazionale proprio alla luce di questa multidimensionalità della qualità della vita. Quindi noi tradizionalmente apriamo un giornale e leggiamo che la ricetta contro la recessione è un PIL più alto. Il PIL che cos'è? Il reddito di una nazione. Bisogna andare al di là, cioè bisogna sicuramente considerare il reddito come un elemento fondamentale, come un mattone fondamentale della qualità della vita, ma non è il solo. E quindi tenere aggiornato il sistema di contabilità nazionale anche rispetto alle altre dimensioni, che possono essere la salute, l'istruzione, il lavoro, la soddisfazione nella vita percepita soggettivamente, la sicurezza, la bellezza del patrimonio, attraverso tutta una serie di indicatori che non vengono più aggregati in un solo numero, ma danno una visione complessa di una realtà complessa, per l'appunto. In questo scenario, dal punto di vista della raccolta e dell'analisi dei dati o comunque degli indizi di una situazione di questo genere, che ruolo possono avere i big data? La struttura dei dati statistici sta cambiando, perché ormai, grazie agli smartphone, a tutti i device del mondo digitale, a questa vera e propria datizzazione delle nostre vite, abbiamo una quantità di informazioni che prima era inimmaginabile poter collezionare. Questo significa che, per esempio, attraverso tecniche di sentiment analysis è possibile, anche da un punto di vista statistico, misurare in qualche modo, che ovviamente poi è soggetto anche quello a critiche, però misurare proprio la qualità della vita istantanea delle persone, come le persone producono, cioè diciamo così, esprimono i loro sentimenti attraverso i vari mezzi che poi ormai sono parte delle nostre vite quotidiane. I social network, Twitter, Facebook, che appunto è diventata famosa pochi mesi fa per l'esperimento in cui ha proprio verificato, misurato la possibilità di modificare il mood e quindi il sentiment e quindi anche l'umore, la percezione di benessere delle persone attraverso proprio la manipolazione della pagina, della timeline. Ovviamente avere una profilazione individuale di una persona attraverso ciò che quella persona esprime come sentimenti, come opinioni sui social network significa avere una ricchezza di informazioni che prima non esisteva, perché tradizionalmente le indagini sulla qualità della vita si facevano con interviste telefoniche che molto spesso si risolvevano in una sola domanda: quanto sia felice da 1 a 10. Ora è chiaro che invece la possibilità di profilare una persona durante la giornata consente di avere una ricchezza, ripeto, di informazioni particolarmente rilevante. Ci sono dei rischi, cioè è chiaro che, a proposito di etica, bisogna anche considerare fino a dove e in che modo vengono poi utilizzati quei dati. Possiamo dire che in qualche modo sono maturi i tempi per cui l'etica possa essere intesa come motore di innovazione, soprattutto come valore competitivo per le aziende, ma anche per gli individui? Beh, speriamo, nel senso che in teoria l'etica dovrebbe essere proprio connaturata alla creazione di valore, però diciamo che sicuramente è un tema che è nell'agenda anche delle grandi aziende. Si pensa all'importanza che sempre più hanno parole come corporate social responsibility, sostenibilità nei piani di sviluppo aziendale, per cui senz'altro anche in funzione di questa profonda trasformazione che sta subendo il sistema economico negli anni sia arrivato il momento di tenere conto del valore che è associato proprio alla responsabilità e all'etica della responsabilità. Quindi sì, diciamo che i tempi sono maturi. C'è anche un'urgenza di tenere conto di questo, proprio perché ci sono delle sfide banalmente fisiche, come può essere il cambiamento climatico, che pongono delle domande alle quali non è più possibile non dare una risposta concreta. E questi modelli di comportamento possono essere una risposta a questa domanda urgente. Etica come valore competitivo, dunque, non più solo accessorio, è la domanda che abbiamo fatto a tutti gli ospiti di questa puntata. Ecco che cosa ci ha risposto Brunello Cucinelli, imprenditore, filosofo, filantropo, così lo chiamano in molti, sostenitore di un modello di impresa che ci ricorda la visione umanistica di Adriano Olivetti. Credo che sia un problema di tempi. Sono arrivati momenti nuovi, motivo per cui in questi momenti nuovi abbiamo una nuova presa di coscienza morale, civile, umana, spirituale, specialmente in voi giovani, e quindi è chiaro che stiamo immaginando quale sarà la vita in questo nuovo prossimo secolo. Io trovo molto interessante, c'è una presa di coscienza, non è che è diventata l'etica è qualcosa di contemporaneo. Aristotele la considera la parte più alta della filosofia, quindi produrre, lavorare, arrecando meno danni possibili all'uomo e forse cercando di miscelare profitto e dono. I did my best to notice when the call came down the line, up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. Profitto e dono, attenzione all'abbastanza, felicità, quanti concetti, quante citazioni, quanti stimoli stiamo mettendo sul tavolo, ce li appuntiamo per i prossimi mesi. Intorno a questi andremo a cercare le nuove storie che vogliamo raccontarvi, dalle start-up, della sharing economy e dell'innovazione sociale al recupero della tradizione e dei legami con il territorio. E il successo di un libro come quello di Piketty, Il capitale nel XXI secolo, al di là della ricetta sulla patrimoniale globale, evidentemente deve far riflettere. C'è una domanda di senso che attraversa in questo momento molti settori e chiede di ripensare i modelli del passato. In questo scenario c'è chi suggerisce di passare, ad esempio, dalla customer alla human satisfaction. Marzio Bonferroni. Beh, il cambiamento è di tipo filosofico e di tipo pratico. Le due cose devono stare insieme. In questo caso, pensando alla customer come figlia legittima dell'homo economicus anziché dell'homo relationalis, tende a produrre delle situazioni molto egoistiche, molto chiuse, vedendo nell'essere umano il consumatore e non l'essere umano integrale. Si passa quindi dal territorio del monologo al territorio del dialogo, dal monologo dominante che ci ha pervaso non solo con la pubblicità ma con tutto un tipo di atteggiamento verso, quindi versus, quasi contro al consumatore, ad un territorio che si spera sia più produttivo nel dialogo e quindi nell'informazione, nella relazione, nella conseguente fidelizzazione. La prospettiva che cambia fondamentalmente, a mio giudizio, è quella di basare la prima fase di lavoro nell'ascolto attento delle necessità, nelle tre aree che sono non solo quella dell'emotività, ma quella della razionalità e quella dell'etica, tra di loro in sinergia, vedendo in ogni area le necessità che i ricercatori chiamano item, che sono da parametrare, da vedere come in ognuna di esse possono esserci dei gap da colmare. Che una classifica internazionale come quella sul progresso sociale elaborata dall'Università di Harvard e dalla società di consulenza Deloitte evidenzia come il PIL non sia più il fattore determinante. Il tema dei modelli di misurazione dei fattori intangibili per il valore di un paese o di un brand, ci conferma Guido Borsani di Deloitte Italia, è all'ordine del giorno. A livello generale, diciamo, l'importanza di queste tematiche sta accelerando molto. A fronte di un inizio, diciamo un po' di anni fa, con la CSR, in cui magari c'è stata un'adesione più formale che sostanziale a certi modelli, adesso è diventato un elemento di competitività. Cito un caso su tutti: tutte le ricerche danno come primo fattore per l'attrattività dei talenti la capacità dell'azienda di avere un impatto sociale. Se pensiamo a quanto possa essere critico per un'azienda la capacità di essere attrattivo e competitivo sul mercato del lavoro nell'attrarre le risorse umane, capiamo che la capacità di avere un impatto sociale e quindi anche di misurarlo, perché ovviamente le due cose sono correlate, diventa attività molto più prossima al core business di quanto non lo sarebbe stato qualche anno fa. Sapete che cos'è l'economia 0.0? Lo scopriamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Essere e avere. Le frontiere, materiali o mentali, di calce e mattoni o simboliche, sono a volte dei campi di battaglia, ma sono anche dei workshop creativi dell'arte del vivere insieme, dei terreni in cui vengono gettati e germogliano, consapevolmente o meno, i semi di forme future di umanità. Sigmund Bauman. Di nuovo in studio con Essere Avere, seconda parte della nostra puntata speciale dedicata ad etica e consumi, economia della felicità, human satisfaction, i nuovi indicatori di benessere. Il confronto, il filo rosso della nostra discussione prosegue con un ospite che in un mondo molto particolare, in un ambiente come quello delle banche, del risparmio e della finanza, ha il coraggio, diciamo così, di parlare di etica, gratitudine, amore. In che termini? Lo capirete tra pochissimo. È il direttore marketing, comunicazione e innovazione di Banca Mediolanum, Oscar Di Montigny. Buon pomeriggio, benvenuto ad Essere Avere. Buon pomeriggio, ciao. Allora, tu hai coniato una definizione molto particolare che dà il titolo, per così dire, il tema portante dei tuoi speech in giro per l'Italia, uno degli ultimi, tra l'altro in un contesto molto particolare come quello del World Business Forum a Milano, economia 0.0. Che cosa indica questa definizione? Ma innanzitutto una piccola provocazione, visto che ormai è ricorrente questa costruzione di paradigmi 1.0, 2.0 su tutto. Mi sono soffermato per un istante sul concetto proprio etimologico della parola economia, che è arte di reggere e amministrare bene le cose della famiglia e dello Stato, e ho scoperto che forse l'accento, al di là di famiglia e Stato, che rappresentano un po' una dimensione personale, se vogliamo pubblica, del nostro fare, sia come individui che come aziende, fosse proprio la parola bene. E quindi mi sono detto, ma questo concetto di bene facendo economia cosa può essere? E da lì sono scaturite riflessioni soprattutto su, diciamo, sui due peers che diremo oggi, no? dell'economia, l'uomo e l'economia stessa. E ho provato a andare un po' in profondità e capire se l'economia fosse il mezzo o lo scopo, ma al contempo se l'uomo, se l'essere umano fosse il mezzo e lo scopo dell'economia. Devo dire che si sono aperti dei file interessanti. Quindi l'economia 0.0 cerca di suggestionare queste domande, stimolando un ritorno un po' a una dimensione più essenziale. Tu parli anche di right profit, sì. In una dimensione come quella che stiamo vivendo oggi, molto liquida, no? Per richiamare Bauman che abbiamo citato in apertura, in cui i confini, gli ambiti diventano molto più labili, quindi gli steccati tra profit e non profit. Sì, esattamente. Parlando di profit, innanzitutto è giusto riaffermare, secondo me, oggi il diritto al profitto, perché altrimenti ci perdiamo in questa dicotomia profit e no profit, che rischia di identificarsi con i buoni e i cattivi. Nel concetto di right, torniamo quindi al significato della parola, ci sono delle piccole epifanie per tutti. La parola right significa retto, buono, bene, giusto, addirittura sano. E immediatamente quindi ci viene offerta una matrice per capire se quando noi perseguiamo il profitto lo stiamo facendo in una maniera, a mio parere, che oggi è necessaria, quindi attuale e soprattutto profittevole, scusami il gioco di parole. E quindi l'altra provocazione era: basta perderci nel chi sono i buoni, chi sono i cattivi, ma proviamo ad iniziare ad occuparci, nell'affermare il nostro diritto al profitto, di cosa sia buono, giusto, sano, bene. E quello che ho individuato fino ad ora, peraltro non l'ho neanche individuato ma mi è stato insegnato, ma l'ho fatto mio, è che non c'è più nulla che possa essere considerato buono, giusto, sano, bene, retto, se non contempla un vantaggio per chi lo offre, un vantaggio per chi lo riceve, e qui si è fermato tutto il marketing fino a ieri, quindi domanda e offerta, ma deve produrre bene anche su una terza direttrice, che è quella della collettività. Quindi è right tutto ciò che produce un vantaggio per me, per te che sei mio cliente, ma anche per l'insieme che ci contiene entrambi. Io credo che per oggi il sistema sia pronto. Il basso chiede un concetto di right. Per basso intendo dire la domanda, per cui che si tratti di politica, si tratti di economia, proprio nell'incontro tra chi ha da offrire qualche cosa e chi domanda, oggi c'è una forte sensibilità a questi argomenti, per cui il sistema credo che sia molto più lento in questo momento di quanto sia la forza con la quale ci viene chiesto di riorientarci. A proposito di definizioni ad effetto, l'Economist qualche mese fa in copertina ha coniato il termine banksters, cioè una crasi tra banker e gangster, non molto premiante, così edificante per il sistema. Cito questo perché, per dire, tra tutte le industrie quella finanziaria è quella che meno di tutte si è adeguata alla rivoluzione digitale, ai concetti che la rivoluzione digitale ha portato con sé, con condivisione, collaborazione, partecipazione e trasparenza. Molti studiosi, molti analisti dicono che tra 10 anni il sistema bancario sarà completamente diverso da come è adesso. Ecco, tu come lo vedi tra 10 anni? Sottoscrivo pienamente. Il cambiamento è già avviato, il cambiamento si è già manifestato. Veramente ce la raccontiamo se diciamo che dovremo aspettare che questi famosi millennials si manifesteranno come consumatori a tutti gli effetti. Stanno già cambiando i paradigmi, sta accadendo in tantissimi settori, cioè basta osservare l'effetto Uber sui tassisti per capire che quando si afferma un modello distributivo di condivisione, si parla di sharing economy oggi, no? Ormai è determinato, quindi lo tsunami è già arrivato e qualcuno si vive ancora un sogno convinto di potervi resistere o che non lo riguardi. Io sono d'accordissimo, il nostro sistema verrà fortemente impattato, anzi si dice che sarà quello che sarà più impattato da questa ondata. Io ne sono felice perché trasparenza, reputation, si dice che saranno le currencies di domani, no? Evviva perché verranno premiati i buoni, i retti, i giusti, coloro che sapranno fare il bene non solo per sé e per il cliente, ma anche per, come dicevo prima, per la collettività. Ultima domanda, una battuta velocissima, sì? Non abbiamo più tempo, e la domanda che ho fatto a tutti gli ospiti di questa puntata è: giunto il momento per cui l'etica diventi un fattore competitivo per le imprese, per i brand, e non più un elemento accessorio? È una necessità. Il Dalai Lama ha fatto un'affermazione secondo me centralissima: è necessaria un'etica laica. Non si può più relegare il concetto di etica sui consessi dell'altro millennio, ad esempio la religione. È necessaria un'etica nella vita di tutti noi, e chi ha sbagliato ha un vantaggio, perché sa come ci si sente quando non sei in quella condizione, cioè male. Grazie ad Oscar Di Montigny per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a te. Sono maturi i tempi per coniugare profitto e dono. Sentivamo prima da Brunello Cucinelli, con il sociologo Francesco Morace abbiamo parlato proprio di economia del dono. Noi siamo abituati a pensare che il dono è gratuità, è qualcosa di improvvisato, invece è qualcosa, come spiegava Marcel Mauss in questo saggio che ha fatto un po' la storia anche dell'antropologia, che è il saggio sul dono, e spiega che dietro al dono ci sono sistemi di relazioni molto importanti e che contano sempre di più. Parlare di dono in tema di consumi, di marketing, del resto di questo che parliamo in questo spazio, sembra quasi un ossimoro, invece oggi non è così, Francesco. Non è così, perché se pensate a quanto la gratuità almeno iniziale di una proposta sia oggi decisiva, capiamo anche che poi, a partire da una dimensione che era stata un po' dimenticata, che è quella della riconoscenza, si può essere riconoscenti in confronti di una brand, di un'azienda che ti ha regalato qualcosa, ti ha offerto qualcosa senza doverla pagare, tanto che gli americani, che poi sono molto bravi a targare queste situazioni, l'hanno chiamato il freemium, quindi qualcosa che è free inizialmente, è un dono, ma che poi diventa premium e quindi viene pagata a volte anche tanto. Oggi sul dono, sulla gratuità, grazie ai mezzi digitali, ma non solo, si sta costruendo una una fetta importante dell'economia, funzionale certo alla parte in cui governa ancora il profitto, ma comunque significativa. È significativa e non è in alternativa al profitto. La cosa interessante è che questi due mondi dialogano tra di loro e quindi il regalare qualcosa può comunque costituire poi motivo di credibilità futura per poi vendere qualcos'altro. Ecco, è un affiancamento importante di una sharing economy che aiuta la profit economy in un momento di difficoltà. Abbiamo detto in apertura, sono sempre più eco-consapevoli ed etico-consapevoli e pretendono prodotti e servizi all'altezza delle loro aspettative, aspettative che comprendono anche temi come l'utilità e la creazione di un valore di scambio tra noi e gli altri. Come sono cambiate dunque le loro valutazioni e le loro abitudini d'acquisto e chi guiderà il cambiamento? Lo abbiamo chiesto a Paolo Anselmi, vicepresidente di GFK Eurisco. L'atteggiamento del consumatore, ma sarebbe più giusto dire di una consistente minoranza di consumatori, siamo vicini al 35% ormai, è l'atteggiamento di chi, quando deve effettuare un acquisto, tiene sempre più in conto anche dimensioni etiche, ambientali e sociali. Un comportamento che abbiamo visto crescere con regolarità nel corso degli ultimi anni e che, incredibilmente, in corrispondenza della crisi, della lunga crisi che stiamo attraversando, si è ulteriormente accentuato. È come se in questa fase il consumatore fosse, come dire, in una pausa di riflessione rispetto al senso e al valore dei consumi, quindi tenesse maggiormente in conto anche queste dimensioni. Chi guiderà il cambiamento, la spinta in avanti in questa direzione, da chi arriverà? Mi sembra una domanda fondamentale, perché è come se fossimo in una fase di passaggio in cui il consumatore si aspetta dalle imprese una più decisa presa di posizione, un'offerta più chiara e non di nicchia di prodotti e servizi che si caratterizzano nel senso di una maggiore sostenibilità. Le imprese sono ancora, con alcune virtuosissime eccezioni, un po' timide, sembrano non crederci fino in fondo. In particolare, a me sembra, c'è un ritardo nella comunicazione, cioè se noi guardiamo anche le imprese che stanno facendo cose davvero pregevoli sul versante dei prodotti, ma anche dei processi produttivi, in termini di attenzione all'etica, alla sostenibilità, poi però quando comunicano lo fanno ancora in modo abbastanza tradizionale. È come se non credessero che questa può essere una leva importante, un elemento di vantaggio competitivo. Io credo che lo sia l'etica e ancor più l'etica dovrebbe essere un prerequisito, come dire, il rispetto di principi e di valori che tutti gli attori economici, gli attori sociali dovrebbero rispettare, ancor più la sostenibilità, un impegno vero sul versante della sostenibilità. Credo però anche che in prospettiva ci sarà una costante allineamento, cioè il rispetto di alcuni principi diventerà in qualche modo un prerequisito. Ci sarà piuttosto il rischio di essere penalizzati se non ci si adegua, piuttosto che di guadagnare vantaggio. Il vantaggio c'è nella fase iniziale, di prima mossa, ecco, questo è il momento. Essere Avere finisce qui, pagina programmi di Radio24.it per riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate, le trovate anche sulla nostra pagina Facebook, in attesa di risentirci domenica prossima alle 15. Grazie in regia a Filippo Aureggi, un saluto da Maria Luisa Pezzali.